La mia bocca quasi sfiora i tuoi seni. Nel breve grigio pomeriggio d'inverno, in questo letto siamo delicate e ci tocchiamo con gioia così calda da stupirci. Dure e delicate disegniamo anelli una intorno all'altra. La nostra candela diurna brucia con la sua luce particolare. E se la neve comincia a cadere e a coprire i rami, e se cade la notte senza essere annunciata, ci sono le delizie dell'inverno, improvvise, selvagge e delicate le tue dita, esatta la mia lingua, esatto al medesimo istante, fermandosi per ridere a una tua barzelletta, è il mio amore, sulla tua scia, al cuspide dell'inverno. Adrian Rich. Una conversazione inizia con una bugia e ogni parlante della cosiddetta lingua comune sente la spaccatura nel ghiaccio, la separazione come assenza di potere, come se fosse contro una forza della natura. Una poesia può iniziare con una bugia, per essere stracciata. Una conversazione ha altre leggi, si ricarica della sua propria falsa energia. Non può essere stracciata. Infiltra il nostro sangue. Si ripete, con lo stile incide irripetibilmente l'isolamento che nega. La stazione di musica classica che suona ora dopo ora nell'appartamento, l'alzare, il rialzare e l'alzare di nuovo la cornetta telefonica, le sillabe che pronunciano, l'antico parlare ancora e ancora, la solitudine del bugiardo che vive nell'intreccio formale della bugia, girando i controlli per affogare il terrore, sepolto sotto la parola mai pronunciata. La tecnologia del silenzio, i rituali, il protocollo, l'annebbiarsi dei termini, silenzio non assenza di parole o musica oppure suoni malvagi. Il silenzio può essere un piano rigorosamente completato, la cartografia della vita. È una presenza, ha una storia, una forma. Non confonderla con qualsiasi tipo di assenza. Quanto tranquille, quanto inoffensive queste parole incominciano ad essere per me, anche se spinte dal dolore e dall'ira. Possono oltrepassare questo film dell'astratto, senza ferire me stessa oppure te. Qua c'è abbastanza dolore. È per questo che sono il classico del jazz su questa stazione, per dare un sottofondo di significato al nostro dolore. Il silenzio si fa nudo. nella passione di Giovanna di Dreyer, il viso di Falconetti, capelli corti, una grande geografia, sorvegliata mutamente dalla telecamera. Se ci fosse poesia dove questo può accadere, non come spazio vuoto oppure parole stirate come pelle sopra i significati di una notte nella quale due persone si sono parlate fino all'alba. Buonasera a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete all'ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche, sono le 20:22 e questo, diciamo, prologo che avete sentito di due poesie, quest'ultima che vi ho letto era appunto Cartografia del silenzio, sono due poesie di Adrienne Rich. Perché, come abbiamo annunciato nel corso del nostro pomeriggio, questa sera Mini Pimer, la nostra maxi trasmissione, parlerà appunto di Adrienne Rich, una lesbica pensante, scritti, parole, saggi e poesia. Am I new but do? Why you were thinking I didn't have a clue? Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. And now I feel so small discovered. E mentre i brani che avete ascoltato prima di pianoforte sono di Alessandra Celletti, quella che invece ascoltate adesso di sottofondo è Amy Winehouse, io sono abbastanza emozionata nel fare questa trasmissione perché, come me, penso tante delle ascoltatrici hanno letto e ritrovato nelle parole di Adrienne Rich, che ricordiamo, oltre a essere appunto una poetessa di tra l'altro anche ha scritto numerosi e numerosi libri di poesia, se ne contano 15 o 17, non ricordo bene, comunque ha scritto sicuramente tantissime poesie, ha anche scritto dei saggi molto importanti per il pensiero lesbico e per il pensiero femminista, saggi che hanno comunque, che segnano la mia formazione teorica, come quella di tante altre che immagino ci stiano ascoltando e che sicuramente hanno aperto degli spazi di pensiero non indifferenti. Oltretutto, questa non è non sarà l'unica trasmissione su Adrienne Rich, ripeto, per le femministe e le lesbiche sicuramente una personalità molto molto importante e molto forte. Parleranno e leggeranno di Adrienne Rich anche il terzo orgasmo che seguirà a Mini Pimer, quindi vi fate questa full immersion nelle parole, negli scritti e nella biografia di Adrienne Rich, e parlerà anche di Adrienne Rich il CLR, il coordinamento lesbiche romane, nella puntata del 10 aprile. It's not easily. You sent me flying and you kicked me to the curb with your better change and your beasties. Now I can't work like this, no. I'm with you and they get to do me. His message was brutal. But the delivery was kind. Maybe if I get this down, I'll get it done. But I've never hated myself for my age so much, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You sent me flying, yeah. When you kicked me to the curb, yeah. So with your tra le altre cose, vi ricordo che siete all'ascolto di Mini Pimer, che parleremo in qualche modo, racconteremo, faremo raccontare in realtà da Diane Rich stessa chi era e cosa ha fatto nel corso della sua lunga, ricchissima, intensissima vita. E volevo ricordarvi che sul nostro blog, che è mfla.noblogs.org, abbiamo messo alla voce materiali, ci sono due dei famosi testi che appunto di saggistica a cui accennavo in linea generale prima. Uno è Eterosessualità obbligatoria e l'esistenza lesbica del 1980, pubblicato per la prima volta sul DWF nel 1980, si trova anche sparso in rete, adesso lo trovate appunto anche sul blog dell'MFLA, ve lo potete scaricare e leggere per intero. Noi proveremo sicuramente l'incipit, ve lo leggerò anche perché appunto è assolutamente interessante. Io ce n'ho una copia sottolineata qua e là, è un saggio di una trentina di pagine, più o meno di una ventina di pagine, e l'altro saggio che troverete e quello della politica del posizionamento, anche questo uno scritto veramente, veramente interessante. Io però, che sono una romanticona e volevo leggervi un'altra poesia, anche perché sono tantissime, in realtà per esempio queste sono molto molto complicati e difficili da trovare. Quelle che vi leggo in realtà fortunatamente le ho trovate nel magico mondo della rete, lo confesso, anche perché ho provato a cercare i suoi libri di poesie, è fortunata a chi ce li ha a casa perché sono pressoché come al solito abbastanza introvabili. Forse si trova, e non è detto neanche quello, perché ho provato a cercarlo stamattina, l'altro grande testo che ha scritto, Nata di donna, tutto un testo di critica alla maternità molto molto molto molto interessante, che da noi è stato tradotto con notevole ritardo e che tendenzialmente non si trova, è pubblicato da Garzanti, quindi se lo trovate nei mercatini o vi capita sotto mano, prendetelo. Io non vi riuscirò a leggere nulla di questo perché quel libro che io avevo l'ho prestato è come al solito, anzi se mi sta ascoltando chi ho prestato questo libro, se magari gli venisse l'ispirazione di restituirmelo, io gliene sarei grata perché ci tengo tanto e perché appunto sono pressoché introvabili. Nel mentre che mi preparo per leggervi un'altra poesia, vi metto un'altra canzone, che sono i Telepop Music con Don't Look Back. Sit still and close your eyes. What's behind the other door? Oh, no more silence. Don't kill this thing we got called love. Just searching for the perfect job. Don't look back. nothing special, just a sound. Appena letto il libro dei miti e caricato la macchina fotografica e controllato la lama del coltello, ho indossato la tuta protettiva di gomma nera, le pinne assurde, la grave e scomoda maschera. Devo fare questa cosa, non come Cousteau con la sua squadra laboriosa a bordo di una solare goletta, ma qui da sola. C'è una scala. La scala è sempre presente, come innocenza agganciata al fianco della goletta. Conosciamo la sua funzione, noi che l'abbiamo usata. Altrimenti è un pezzo di relitto marino, uno strumento particolare. Mi immergo. Gradino dopo gradino e ancora. L'ossigeno mi invade. La luce blu. Gli atomi trasparenti della nostra aria umana. Vado giù. Le pinne rendono tutto difficile. Striscio come un insetto lungo la scala e non c'è nessuno a dirmi dove l'oceano incomincerà. All'inizio l'aria è blu e poi ancora più blu e poi verde e poi nera. Sto per svenire, eppure la mia maschera è potente. Pompa il mio sangue con forza. Il mare è un'altra storia. Il mare non è una questione di forza. Devo imparare da sola a girare il corpo senza sforzo nell'elemento profondo. E adesso è facile dimenticare perché sono qui, in mezzo ai tanti che hanno sempre vissuto qui, sventolando i loro ventagli dentellati, in mezzo ai coralli. E oltretutto si respira diversamente qui sotto. Sono venuta ad esplorare il rottame. Le parole sono scopi. Le parole sono carte geografiche. Sono venuta a verificare il danno fatto e il tesoro sopravvissuto. Sposto la scia della mia lampada, lentamente, lungo la fiancata, di un qualche cosa più permanente dei pesci e delle alghe, la cosa per cui sono qui. Il relitto e non la storia del disastro, la cosa in sé, e non il mito, il viso annegato che sempre fissa il sole. L'evidenza del danno, levigata dal sole per sempre in questa scabra beltà. Le costole del disastro, a riflettere il loro inserimento fra gli incerti predatori. Questo è il luogo. E sono qui. La sirena dai capelli scuri che nuotando all'indietro, sirena intrappolata nell'armatura da palombaro. Giriamo in silenzio, intorno al relitto ci tuffiamo nella stiva. Sono lei. Sono lui. il cui viso annegato dorme a occhi spalancati, il cui seno porta ancora lo stress, il cui cargo d'argento e di rame vermiglio riposa oscuramente dentro barili fissati a metà e lasciati a marcire. Noi siamo i quasi disfatti strumenti che una volta segnavano il percorso, il diario di bordo inzuppato d'acqua, la bussola rotta. Siamo, sono, sei. Per codardia o per coraggio, colui che scopre la via del ritorno alla scena con un coltello, una macchina fotografica, un libro dei miti dove i nostri nomi non ci sono. Quindi provo a darvi qualche piccola notizia biografica su Adrienne Rich, che è nata a Baltimora nel 1929 ed è morta a Santa Cruz in California a 82 anni il 27 maggio del 2012. Abbiamo detto Adrienne Rich, poetessa, saggista, lesbica e femminista, che, come ha sottolineato Margaret Fox, dando notizia della sua scomparsa sul New York Times, ha portato l'oppressione delle donne e delle lesbiche sulla prima linea del discorso poetico, tenendocelo per quasi mezzo secolo. E, figlia appunto nata in una famiglia benestante, il padre Arnold Rice Rich era un medico ebreo che insegnava alla Johns Hopkins University, la madre Ellen Gravely Jones era una pianista e compositrice protestante che aveva abbandonato la sua carriera per dedicarsi al marito e ai figli. Nel 1951, dopo la laurea in letteratura al Radcliffe College, Adrienne pubblicò la sua prima raccolta di poesie, A Change of World, e viaggiò a lungo in Europa, visitando Firenze e quasi tutta l'Italia. Nel 1953 sposò Alfred Conrad, economista ad Harvard, dal quale ebbe tre figli tra il 1955 e il 1959, risiedendo con la famiglia a Cambridge fino al 1966, quando si trasferì a New York e diventò un attivista nelle proteste contro la guerra del Vietnam e nel movimento per i diritti civili. Partecipando al movimento femminista, prese coscienza del suo amore per le donne. Nel 69 Rich pose fine al suo matrimonio e l'anno dopo suo marito, si suicidò. Dal 76 Rich ha vissuto con la sua compagna, la scrittrice Michelle Cliff, di origine giamaicana. Entrambe si trasferirono nel 79 in Massachusetts e poi appunto a Santa Cruz nell'84. E Rich ha pubblicato ben 25, quindi sono più di quelli che dicevo all'inizio trasmissione, perché come al solito io coi numeri non ci prendo mai, pure quando sono relativi, 25 volumi di poesie per le sue opere ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, ha insegnato nelle principali e prestigiose università statunitensi. È stata una delle figure più significative della letteratura americana contemporanea. Dalla metà degli anni 70 il suo ruolo di poeta delle idee nel movimento femminista e lesbico ha aperto dibattiti fondamentali, come quello appunto seguito alla pubblicazione del suo famoso testo Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, ovvero quello che vi dicevo prima, eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica. Nel 97 ha rifiutato il National Medal of Arts dicendo: non posso accettare un simile premio dal presidente Clinton o da questa Casa Bianca, perché l'autentico significato dell'arte, come io lo intendo, è incompatibile con la cinica politica di questa amministrazione. L'arte non significa niente se serve semplicemente a decorare il tavolo da pranzo del potere che la tiene in ostaggio. Nel febbraio del 2003 rifiutò anche di partecipare a un simposio della Casa Bianca, ai tempi c'era Bush, su Poetry and American Voice, in segno appunto di protesta contro la guerra in Iraq. La radicalità politica di Adrienne Rich è sempre stata anche poetica. E nel 68, nella poesia Planetarium, dedicata all'astronoma Caroline Herschel, scriveva: «Sono uno strumento a forma di donna che cerca di tradurre pulsazioni in immagini per il sollievo del corpo e la ricostruzione della mente». Questo breve ritratto biografico l'ho rubato a Rosanna Fiocchetto, e quindi, come mia consuetudine, cito le fonti. Ci sentiamo Martina Topley Bird. Che il tempo vola, perché sono le 20:47 e chiaramente, certo, parlando di una personalità così tanto interessante e comunque piena di parole, di scritti, di ispirazioni, il tempo scorre. Io vi ricordo che siete all'ascolto di Mini Pimer, che siete sul martedì autogestito femminista e lesbiche, sugli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. E allora affrontiamolo, insomma, questo eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, che inizia così. Allora, inizia innanzitutto con due citazioni. Io adesso ve le leggo, anche perché sennò poi non si capisce il discorso che fa Dylan Rich. Dal punto di vista biologico, gli uomini hanno un unico orientamento innato, quello sessuale, che li spinge verso le donne. Mentre le donne ne hanno due, uno sessuale nei confronti dell'uomo e uno riproduttivo nei confronti della prole. Questa era la prima citazione. Se volete poi vi dico anche chi sosteneva queste cose. Era una donna terribilmente vulnerabile, polemica, che usava la femminilità come una specie di metro per misurare o scartare gli uomini. Sì, qualcosa del genere. Era un'Anna che chiedeva di essere sconfitta dagli uomini anche se non ne ero conscia. Ma io ne ho coscienza. E averne coscienza significa lasciarmi dietro tutto questo e diventare... che cosa? Fui presa da uno stato d'animo comune alle donne del nostro tempo, che può renderle amare lesbiche o misantrope. Sì, Anna, in quel periodo ero io. Un'altra linea attraverso oggi. Altri esempi tratti da numerosi testi, oltre i due appena citati, questo è Adrien Rich, potrebbero essere addotti a testimonianza del pregiudizio derivante dall'istituzionalizzazione dell'eterosessualità, per cui l'esperienza lesbica viene iscritta in un ambito che va dal deviante all'aberrante, o più sbrigativamente resa invisibile. Le affermazioni della Rossi, secondo cui le donne sarebbero per natura orientate sessualmente verso gli uomini, o quelle della Lessing, ecco di chi sono le due citazioni, che considera la scelta lesbica semplicemente una reazione all'amarezza provata con gli uomini, non sono affatto peculiari di queste due autrici, ma sono ampiamente diffuse nella letteratura e nelle scienze sociali. Vi ricordo che stiamo parlando del 1980, questo saggio è uscito nel 1980. In questa occasione mi interessa sviluppare altri due aspetti, cioè A. Come e perché la scelta di una donna di condividere con una sua simile passione, vita, lavoro, di avere donne come amanti e come proprio gruppo di riferimento è stata soffocata, annullata, respinta nell'ombra e costretta a dissimularsi. B. Il silenzio pressoché totale sull'esistenza lesbica da parte di un'ampia gamma di iscritti, compresi quelli accademici femministi. Le connessioni tra i due aspetti mi sembra ovvia e ritengo che gran parte dell'elaborazione teorica e critica delle femministe si sia arenata su questa secca. Alla base del mio ragionamento, dice Adrien Rich, c'è la convinzione che l'esistenza di studi lesbici specifici non può costituire un alibi per il pensiero femminista. Qualsiasi teorizzazione o produzione politico-culturale che tratti dell'esistenza lesbica come di un fenomeno marginale o meno naturale, o come di un fatto di preferenza sessuale pura e semplice, o ancora come immagine speculare dei rapporti eterosessuali o omosessuali maschili, perde credibilità alla base. Indipendentemente da eventuali altri meriti, la ricerca teorica femminista non può più limitarsi ad esprimere tolleranza per il lesbismo in quanto stile di vita alternativo, tra virgolette, o fare riferimenti meramente rituali alle lesbiche. È ormai tempo, dice Adrien Rich nel 1980, di elaborare una critica femminista dell'orientamento eterosessuale imposto alle donne, ed in questo saggio cercherò di dimostrare il perché. Io non ve lo leggo perché innanzitutto è molto lungo, ma questo è l'incipit di appunto eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, un cult, potremmo chiamarlo così, oggi sì, va tanto di moda questa parola, un vero cult per le lesbiche, per le femministe, anche perché lei appunto teorizzava questa... cioè è stata la prima a cercare di teorizzare da femminista l'importanza dell'essere lesbica. Cat Power. Sorry, but we are apart. Questi tutti discorsi chiaramente molto interessanti. Scusatemi se vi interrompo, Cat Power con questa canzone, tra l'altro Aretha Sang One For Me, immagino Aretha Franklin, perché appunto le donne che poi appunto cercano di creare una rete collettiva, ne parlavamo pure la settimana scorsa con l'Alfabeta, di rimandi e citazioni per rendersi appunto poi più forti, forse fanno anche quello che proprio Adi Rich diceva, il continuum lesbico, ritrovando tra le altre cose del martedì stesso una discussione del martedì, non sto trovando il primo foglio perché come potete immaginare io mi sono contornata di 552 milioni di fogli con le poesie, le quell'altro, e mi sono persa un foglio, ma adesso lo ritrovo e ve lo ritroverò, perché ovviamente in questo saggio eterosessualità lesbica, magari eterosessualità obbligatoria di esistenza lesbica, e parte, cioè, tutta questa teorizzazione sul continuum lesbico. E quando il martedì fece quella trasmissione fondante poi del MFLA, ovvero del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e fece quella discussione nel 2006 proprio su il perché, l'importanza di definirsi lesbiche, eccetera, si diceva appunto nella trasmissione, durante la trasmissione, andiamo di autocitazione, ma era il 2006, sono passati 6 anni, quindi magari alcune di noi o voi che state ascoltando non c'erano, altre sì e noi ne siamo contente. Se sei lesbica, ami altre lesbiche, dicevo, questo lo diceva Daria, se sei fuori dalla società, sei fuori dalla società, ma ci sono anche altre pensatrici che hanno detto che anche le femministe rompono con il sistema, anche le femministe escono dalla società perché scelgono di avere relazioni privilegiate con altre donne, scelgono di abitare con altre donne, scelgono per quanto è possibile di costruire una situazione lavorativa insieme ad altre donne, scelgono di avere dei punti di riferimento affettivi ed amicali forti, insomma scelgono e privilegiano le relazioni tra le donne. A sostenere questo è, per esempio, Adrienne Rich, che parla di continuum lesbico. Dice: non necessariamente bisogna essere lesbiche, ma basta semplicemente scegliere le altre donne. E questo diceva, poi questo discorso ci riporta direttamente a noi, intenso come martedì, perché riguarda anche noi del martedì, perché spesso quando parliamo, quando analizziamo il lavoro che facciamo insieme, uno dei punti cardine, dei punti di forza che fanno la differenza qualitativa del nostro lavoro è proprio il curare le relazioni e privilegiare le relazioni tra donne. E aggiungeva Olga: sì, infatti ci inseriamo anche noi in questo continuum lesbico, e per questo, diceva all'inizio, l'aggiunta del termine lesbiche, oltre ad essere doverosa e giusta, sia per dare visibilità, sia perché le lesbiche ci sono e lavorano in questa redazione, anche perché arricchisce noi, arricchisce tutto lo spazio del martedì. Questi pezzi di Amarcord e anche poi fondanti appunto di quello che è, se ci fate caso, nella nostra sigla c'è ancora martedì femminista autogestito. Questa è una discussione infatti che è stata fatta poi all'interno della redazione nel 2006, quando poi appunto decise di chiamarsi martedì autogestito femministe e lesbiche, e tra le pensatrici insomma di ispirazione per questo ragionamento c'era appunto Adrienne Rich. Sembrava giusto e doveroso in qualche modo ricordare questa discussione, farla rientrare in questo ricordo di Adrienne Rich che stiamo facendo questa sera ai microfoni del martedì. E ci ascoltiamo un'altra canzone, Join as a Police Woman, Eternal Flame. show you how. I can't be the lighter, I can't be the lighter, just in case you never know. I can't be the lighter, I can't be the lighter of your lakes that we can swim as two. But I already own my own body of water. You follow me, and yes, yes, I'll follow you, it's true. I'm already certain I've got good directions, just in case you never knew. I won't be becoming, I am the beginning, and I'm already done. Stralci del pensiero di Adrienne Rich, la difficoltà di dire io è una frase tratta dalla scrittrice della Germania orientale Christa Wolf, ma una volta espressa, mentre ci rendiamo conto di voler andare oltre, non è difficile articolare il noi? Non puoi parlare per me, non posso parlare per noi. Due modi di pensarla, non c'è nessuna forma di liberazione che sappia dire soltanto io. Non c'è nessun movimento collettivo che possa parlare per ognuno di noi fino in fondo. E così anche i pronomi comuni diventano un problema politico. Questo, proprio questa frase volante, è estratta da quell'altro testo di cui vi parlavo, La politica del posizionamento. Dobbiamo riconoscere la natura circoscritta del nostro essere bianche e bianche, la simultaneità delle oppressioni. Un altro testo molto molto molto interessante lo trovate sul nostro blog mfla.noblogs.org sotto la voce materiali, insieme anche a eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica. Che dire, ne leggiamo qualcos'altro? La verità è che in ogni cultura e in ogni epoca storica vi sono state donne che hanno vissuto un'esistenza indipendente, non eterosessuale ed in stretto rapporto con le loro simili, ovviamente nella misura consentita dal contesto sociale e spesso convinte di essere le uniche ad agire in quel modo. E hanno scelto di farlo, sebbene poche siano state in condizioni economiche tali da potersi permettere di rifiutare il matrimonio. E nonostante che il trattamento riservato a quelle non sposate andasse dalla calunnia alla derisione, al genocidio deliberato, compresi la tortura e il rogo di milioni di vedove e zitelle durante la caccia alle streghe nel XV, XVI, XVII secolo in Europa, e la pratica delle sutle nei confronti delle vedove indiane. Sempre questi stralci dove appunto Adrienne Rich prova a mettere in campo le motivazioni dei suoi ragionamenti su l'essere appunto dell'eterosessualità obbligatoria, di come questa ingabbi in realtà le donne, eccetera eccetera eccetera. Sono le 21:03. Eccone qua un altro pezzo, perché poi sfogliando voglio a te. Ho scelto di usare i termini esistenza lesbica e continuum lesbico perché la parola lesbico evoca un ambito clinico limitativo, esistenza lesbica sta ad indicare sia il riconoscimento della presenza storica delle lesbiche che la nostra costante elaborazione del significato di tale esistenza. Per continuum lesbico intendo una serie di esperienze, sia nell'ambito della vita di ogni singola donna che attraverso la storia, in cui si manifesta l'interiorizzazione di una soggettività femminile e non solo il fatto che una donna abbia avuto o consciamente desiderato rapporti sessuali con un'altra donna. L'esistenza lesbica comporta sia la caduta di un tabù che il rifiuto di un sistema di vita obbligato, significa anche un attacco diretto o indiretto al diritto maschile di accesso alle donne. L'esistenza lesbica è stata vissuta senza poterne conoscere la tradizione, la continuità e il supporto sociale. La distruzione di documenti, memorie e lettere che attestano la realtà dell'esistenza lesbica deve essere seriamente considerata un mezzo per imporre l'eterosessualità alle donne, perché ciò che viene sottratto alla nostra coscienza è la gioia, la sensualità, il coraggio e il senso della comunità, ma anche la colpa, l'autotradimento e il dolore. Storicamente, le lesbiche sono state private di un'esistenza politica perché sono state inserite, in versione femminile, nell'omosessualità maschile. Equiparare l'esistenza lesbica all'omosessualità maschile sulla base della comune stigmatizzazione sociale significa, ancora una volta, negare e cancellare la realtà femminile. Separare le donne stigmatizzate come omosessuali o gay dal complesso del continuum della resistenza femminile, dell'asservimento e annetterle ad un modello maschile significa falsificare la nostra storia. Parte della storia dell'esistenza lesbica si rintraccia ovviamente dove le lesbiche, in mancanza di una consistente comunità femminile, hanno condiviso con gli omosessuali maschi certe forme di vita sociale e una causa comune. Ritengo che l'esperienza lesbica, sto ovviamente tagliando e saltando dei pezzi, sia come la maternità un'esperienza profondamente femminile con specifiche forme di oppressione, con significati e potenzialità che non saremo in grado di comprendere se continueremo ad omologarla ad altre forme stigmatizzate di esistenza. Spero che vi sia venuta la curiosità e se per caso non abbiate avuto modo di incrociare questo testo di Adrienne Rich, lo ricordiamo, del 1980, adesso vi sia venuta voglia di leggerlo tutto per intero, leggerlo e rileggerlo tra le altre cose perché l'ho letto diverse volte, ma tanto pezzi me lo scordo, altri pezzi amo rileggerli, quindi figurarsi. E sono le 21.06, io sto per chiudere, vi mando una canzone e poi vorrei chiudere ancora con una poesia. Christine Ersch. You know how it feels when the real world ain't questa che ascoltate è Christine Ersch, Your Dirty Answer. Prima di chiudere, sono le 21:10, siccome come vi ho detto volevo chiudere con una poesia ed è quello che farò, volevo salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e del martedì autogestito femministe e lesbiche. E siete appunto all'ascolto di Mini Pimer, questa sera dedicato a Adrien Rich. In realtà vorrei leggere due poesie, vediamo se ci riesco, magari mi rubo qualche minuto. Innanzitutto avevamo intitolato la trasmissione Una lesbica che pensa, in diciamo in sintonia con una delle sue poesie che iniziava così: una donna che pensa dorme insieme ai mostri, diviene il becco che la afferra, è la natura, baule pieno di tempora e mores, dal coperchio rotto, eppure ancora utilizzabile, si riempie di tutte queste cose, i fiori d'arancia ammuffiti, le pillole contro i dolori mestruali, i terribili sieni di boadicea sotto i musi piatti delle volpi e le orchidee. Due donne, belle, avvinghiate nella lotta, entrambe orgogliose, scaltre, sottili. Odo urlare attraverso i cristalli e le maioliche come furie allontanate dalle loro prede. L'argomentazione ad feminam, tutti gli antichi pugnali arrugginiti nella mia schiena, io li pianto nella tua. Massam Monsieur. Se volete scrivere al martedì mfla@ondarossa.info, se volete chiamarci 06 49 17 50. Io ho scelto di fare questa trasmissione diciamo abbastanza così a suggestioni, con dei pezzi, degli stralci, degli scritti, anche perché credo e penso che sia il terzo orgasmo che anche stasera parlerà, anche loro parleranno di Adrien Rich, sia il CLR che ne parlerà il 10 di aprile in una trasmissione, saranno molto più serie e seriose di me. Io invece l'ho preso un po' sul versante più romantico e quindi adesso vi saluto e per salutarvi vi leggo questa ultima poesia che si chiama Lettere a una giovane poeta, Adrien Rich. Ciao a tutti. La foto non ti renderà giustizia. I formicai umidi e gibbuti ti impediranno di puntare la lente sulla palude. I cinque cigni che sorvolano stridendo distraggono la tua sete di definizione e fuga. Lascia che tiri la tua vestaglia gelida e che ti dica una parola. Ineluttabile. Intendo che a questo non sfuggirai, la peggiore delle nuove nuove. La storia corre avanti e indietro nel labirinto, panico. Io non ti toccherò di nuovo. Tu hai la scelta se congelare o meno. Voglio dire, tu ed io siamo chiusi in un laboratorio senza scienza. Taglieterebbe pensare che la poesia sia pura e possa come niente prendere posto sotto bagliori di lampi o coltri di nebbia a vivere la propria vita, sgridata, zittita, da un lacerto di viscere che gronda nomi. Compositori visitano Terezin, registi, Sarajevo, Cabrini, Gress o Edvard Hüses. Ineluttabile. Se una donna intensa quanto una qualunque artista, né più né meno, può gettarsi in un qualunque giorno giù dal 14° piano, ti solleverebbe sostenere la poesia con questo non ha a che fare? Rivolta agli orli della tua distrazione, il suo rovescio sottomarino striato dal flusso distruttivo del dolore che rode e risucchia, tira e molla. Avanti e indietro, un ordito di grotte, l'embrione della tua paura che scalcia nel loro viscido lussureggiare, protetto dalla serra d'acqua, cercando, nella distrazione, di radicarsi saldamente, cercando di contrastare la corrente di questo assurdo ripetersi. Guarda, con tutta la mia paura, io sono qui, con te, a provare cosa comporta stare, cosa comporta andare. arenata, barca a remi, piroga, presa tra le più bassa e la più alta delle maree primaverili, arenata, avvenuta in stallo, arretrata, sì, essere generata, essere, l'infernale passivo, essere come insiedi, stai, sdraiati, obbedisci. Il desiderio terribile del cane che gli prende il cervello e lo depone ai piedi calzati di stivali. Tu puoi essere così per sempre. Essere. Come senza muoverti. Ma ecco come io, tuttavia, ne emergo. Spingendo in su da sotto, il capo avvolto in una sciarpa a scacchi, un casco con la torcia sulla fronte, spingendo fuori dal magma questa faccia velata, questa testa illuminata che affronta il filtrare della morte, la bocca che ha nuotato tra i detriti, pronunciando con chiarezza ciao e addio. Tuttavia, chi vuole sapere di questa bocca pallida, con questo rossetto cremisi? Chi delle mie corde vocali da travestito del mio amaro ritmare, l'occhiata in tralice che oltre la spalla getto, alle grandiose strofe e antistrofe, il mio canto, il mio ululato, i sacri resti delle mie unghie, dei capelli, la mia dissenteria, la mia scandalosa gola allegra, la colonia penale del mio davanzale senza uccelli, la mia faccia giù in centro in un film di Saffo e Artaud? Tutti. Per poco. Non è il déjà vu che uccide, è la preveggenza, la testa che parla dal cratere. Volevo andare dove il cervello non fosse andato ancora. Non volevo starci così sola. Questa era Adrien Rich, era Lettere a una giovane poeta. A buon proseguimento con il martedì autogestivo femministe e lesbiche. Ci sentiamo martedì prossimo. Ciao a tutti.